Buonasera, non era un difetto del computer che stava streamando male, ma in realtà avevo provato a usare un beat crasherino su sul jingle per vedere come suonava. Secondo me non suonava male, bisogna divertirci così oggi un pochino per sfangarla. E innanzitutto buonasera, prima di dirvi di cosa parla questa puntata, che parlerà appunto Mina della Accademia della Brusca, vi volevo dire che il sottofondo che sentirete un po' per tutta la trasmissione l'ho trovato un po' a caso sul tubo. Se scrivete Dark Doom Jazz trovate una lunga playlist di appunto Dark Doom Jazz praticamente. Cioè, in realtà c'è un po' di tutto, c'è del free, c'è veramente un sacco di roba bella contemporanea. Quindi voi, se siete incuriositi un po' dal sottofondo musicale che mettiamo sempre in queste dirette, sempre roba secondo me, cioè, ovviamente scelta, qui non è che si fa, però è sempre molto particolare e bello come i brani modestamente che mettiamo. Ok, e passo la parola a Mina. Buonasera a tutti cari amici di Radio Wombat, benvenuti a questa nuova diretta, 19.05, siamo quasi puntuali. Allora, se io vi dico, temersi dee di sole quelle cose che hanno potenza di far altrui male, dell'altre no, che sono paurose. Se vi dico No Man is an Island e se vi dico No Means No, a voi cosa viene in mente? Quale sarà il tema di questa serata? La parola che ci accompagna, che ci accompagnerà tuttora e in futuro, soprattutto dal 4 di maggio, è la parola no, la negazione assoluta. Quindi con questo bel Dark Doom Jazz di sottofondo direi che possiamo sicuramente aprire le danze e iniziare il viaggio nella negazione, nella negatività totale. Appunto, cioè il primo pezzo che mettiamo ovviamente dei No Means No, che vi ho fatto sentire tante volte, varie volte diciamo. Sono un gruppo canadese di Vancouver che ormai si è sciolto da poco, hanno detto noi siamo vecchi, come età erano un pochino vecchi, ma come pacca diciamo che erano dei ragazzini alle prime armi, pieni di energia, ecco. Avevo scelto due pezzi, però intanto ne mettiamo uno, poi non so se l'altro si mette, dipende un po' da che facciamo. E il pezzo che metto si chiama Rags and Bones, tratto da Wrong, che mi pare sia il secondo disco, non mi ricordo, del 1989, che uscì per la grandissima Alternative Tentacles. Questo è il suono diciamo un po' classico dei No Means No, e con il disco forse uno dei più belli. Cigarette butt. eccoli erano i No Means No, infatti mi sembrava di non sentirli mentre parlavo. E ovviamente dico, Nonina ha la voce un po' bassa, forse sarà mica qualcuno che mi sta sabotando nell'eterna lotta tra 8 Hz e l'Accademia della Brusca. Ma insomma, che cosa vi fa venire in mente No Means No? A me personalmente fa venire in mente, rima non voluta, quella famosa frase che poi ha fatto il giro del mondo e che è anche un po' diventato bandiera non solamente del movimento femminista, ma proprio anche di tutta la questione sul consenso sessuale, che è appunto no means no. Infatti circa negli anni 90 venne creata questa campagna, quindi no vuol dire no, dalla Federazione degli Studenti canadese, pensate un po', non è americana ma è canadese, per sensibilizzare gli studenti su quello che viene definito sexual assault, acquaintance rape and dating violence, quindi tutta questa serie di reati sessuali ovviamente perpetrati ai danni di persone che non erano consenzienti e che in quegli anni stava dilagando un po' nei college. Quindi questo slogan No Means No, che poi è stato veicolato su spillette, poster, cartoline e adesivi, ha fatto il giro del mondo, tanto è vero che anche noi in Italia abbiamo la nostra tradizione No vuol dire no, ed è anche uno slogan utilizzato molto per esempio in Francia. E che dire, che è una sorta di safe word, quindi è un'espressione diciamo che nella sua semplicità, quando viene detta, dovrebbe essere chiarificatrice dell'intento. E poi c'è stata anche la campagna Yes Means Yes, ovvero quando entrambe le parti sono d'accordo sul rapporto che poi ci sarà, e quindi è tutto molto legato, no, alla comunicazione verbale, ma anche alla comunicazione non verbale, perché comunque viene fatta anche da gesti e da un linguaggio del corpo che fa da barriera e quindi ci dà la sensazione di ciò che sta succedendo, e quindi di un consenso o di un rifiuto totale. E che dire, questa era la prima visione del no, dopo No Means No ovviamente. Musicalmente mi sono un po' divertito a trovare dei brani o dei nomi dei gruppi che abbiano a che fare con il no, ovviamente ce ne sono tantissimi, l'ho scelto un po' così, ricordavo un po'. E questa cosa tra l'altro la fa anche programma Slick Chicks senza S, ho fatto la fantozzata che ogni puntata indaga su un termine o su un argomento con pezzi che richiamano, a chi non l'ha mai seguito come programma lo può ricercare. Anche faccio pubblicità, l'importante è non fare pubblicità all'Accademia della Brusca. Infatti ci sto riuscendo, perché piano piano state smettendo, eh? Ditela tutta. E, a parte gli scherzi, insomma, il secondo brano sarebbe un brano famosissimo dei Faith No More. Brano famosissimo, ora voi pensate, Faith No More di... come si chiama di... No. Dai, c'ho un lapsus. Il cantante del Faith No More è lui che si trova ovunque. Io non parlo più. Mike Patton, ma no, cioè, niente. Allora, chi ascolta il Faith No More da poco, pensano che i Faith No More siano il gruppo di Mike Patton. In realtà la prima cassetta, i primi singolini e il primo LP era cantato da un'altra persona che si chiama Chuck Mosley, che si chiamava, perché purtroppo è morto, mi pare, un paio d'anni fa, Dopo l'esperienza con If No More, poi fece un altro gruppo, Cement, mi dice la mia. E tra l'altro ho visto che ha suonato anche per un annetto con i Bad Brains, e esiste un live in bootleg dove c'è Chuck Mosley che canta, e sì, al posto dell'altro trotto, insomma. Il disco si chiama Introduce Yourself, è del 1987 e uscì per Slash. Te cosa volevi dire? Niente, che mi farei fare la fine di Mosley praticamente. Ecco. Insomma, il pezzo si chiama We Care A Lot, ovvero siccome We Care A Lot, ci importa parecchio, perché tanti in certi ambienti hanno lo slogan We Don't Care, no? Invece loro fecero una cosa giusta. We care a lot, ce ne frega di tante cose, ce ne frega parecchio, diciamo. E questo è il brano che uscì, che era anche il singolone del disco. Mi ricordo che l'ho consumato, e ho consumato anche la videocassetta che registrava, che dove avevo registrato il video. We care a lot. Quindi, Faith No More, anche qua c'è un no nel nome. Significherebbe mai più fede, qualcosa del genere. Però in inglese lo potremmo dire anche tranquillamente come No More Faith. E invece loro ci hanno tenuto a mettere proprio, diciamo, la parola più significativa della frase davanti alla negazione. Quindi è una scelta, insomma, coraggiosa e interessante. Soprattutto grazie a questo forse noi ci ricordiamo meglio di loro. Non lo so. Quindi passiamo. In genere, vedete, in queste dirette si spazia molto, c'è la linguistica, c'è un po' di filosofia, c'è un po' di dramma quotidiano e di attualità, socio qualcosa. Però generalmente si segue anche un po' un percorso cronologico, quindi magari partiamo dalle origini per arrivare a oggi, al pensiero più, diciamo, vicino a noi, a livello perlomeno temporale. Invece oggi io salto un po' di palo in frasca. Se ci fate caso, non vi ho ancora ammorbato con l'origine del nome No, e perché no, e perché sì, e abbiamo aperto con un frammento di Dante, ma non ve ne ho ancora parlato, perché oggi ci andava di parlare un po' a ruota libera delle cose anche dimenticate, cioè di come questo no in realtà una particella che utilizziamo spessissimo nel nostro linguaggio e che in realtà condiziona le nostre vite, sia anche effettivamente il fulcro di tanti componimenti e di buona parte, insomma, delle frasi di uso quotidiano. Ci dicono Chuck Mosley, il dimenticato dalla storia. Effettivamente sì. Chi di voi conosce la poesia di John Donne, No Man is an Island, da cui Conad ha ripreso anche il suo indebitamente il suo slogan Nel suo nome un'isola? Terrificanti. Bene, ve la leggo. No man is an island entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. If a cloud be washed away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as in any manner of thy friends or of thine own were. Any man's death diminishes me, aiuto, because I am involved in mankind, and therefore never send to know for whom the bell tolls, it tolls for free. Anzi, it tolls for thee, che è tutt'altro significato. Quindi nessun uomo è un'isola, nessun uomo può fare per sé, e l'Europa stessa, ci dice John Donne, può essere semplicemente un continente, perché anche quello può essere spazzato via, insomma, dal mare. E soprattutto dice, se non sappiamo per chi suona la campana alla fine, molto probabilmente questa campana suona per te o per noi. Quindi è effettivamente un componimento abbastanza, come dire, nichilista, non so. In realtà il contrario, questo no, no man, che in realtà in italiano si traduce con nessun uomo, è, diciamo, un concetto abbastanza profondo, perché indica la nostra fragilità. E soprattutto, io ora vi ho letto questo componimento, ma è una poesia del 600, quindi è piuttosto, come dire, contemporanea, perché in un periodo come questo, in cui ci si sente tutti molto distanziati, soli e appartenenti, in realtà facenti parte perlomeno di un problema infinitamente grande, ecco, vediamo che queste pene erano sicuramente già condivise nel passato. Quindi questo componimento che inizia con no è molto strano, è molto particolare, no? Come costrutto, iniziare con una negazione, ci dicono sempre di non farlo, invece si fa. E insomma ci ricorda che non siamo soli, non l'eravamo nel 600, non lo siamo oggi, e per chi suona la campana potrebbe essere anche per noi, chissà. Appunto, indagando sul no e sulle isole, come in questo caso hai letto te questa cosa, mi era venuto in mente un brano di famosissimo, però io non ci capisco niente, di reggae, roots e gli altri rocksteady derivati, se mi sentono mi picchiano, Però c'è un pezzo famosissimo che è conosciuto più o meno da tutti, che si chiama No No No, e è stato fatto e coverizzato da migliaia di gruppi e progetti. Io vi metto una versione che credo non avete mai sentito, di LA Vampires, che non so minimamente chi sia, Meets Zola Jesus, che è invece più poppettona, è già più conosciuta, diciamo, è una songwriter americana ma russa, diciamo, poi trapiantata in America, insomma, dalle stalle alle stalle, insomma. Vabbè, questo si chiama il pezzo No No No. Ora, quando lo metto, forse ricordate cos'è. Potete anche scrivere, potete anche aiutarci a dire: no, questo pezzo in realtà l'originale era reggae roots, oppure questo pezzo era invece di un altro filone. Comunque il pezzo era degli anni 60, questo mi ricordo che era più o meno così. E potete appunto scrivere attraverso il sito, se guardate c'è il pad della diretta, potete scriverci, potete aiutarci, anche infamarci, anche se è più bellino, se più carino se ci aiutate, se ci volete bene, perché è una cosa che stiamo facendo per voi, perché il Radio Wombat è una radio autocostruita e autogestita, ricordiamoci. Bene, LA Vampires and Zola Jesus, anzi Meets Zola Jesus, un disco, un EP del 2010 uscito per Not Fun Records, il brano No No No. You don't love me, and I'll never. che poi ci scrivono e dicono: più ci chiedono di stare distanti e più ci si sente uniti, magari nella sfiga. Poveri sciocchini, poveri illusi, non ci riabbracceremo mai, non ci rivedremo mai più. No, non è vero, non è vero, ci rivedremo tutti presto. Intanto ringraziamo Radio Wombat e ringraziamoci per essere un veicolo, insomma, così di congiunzione tra le distanze che fino a pochi giorni fa ci sembravano molto corte, insomma, tutte percorribili in macchina, in bicicletta, insomma, invece ora siamo separati per forza di cose. E quindi in tutta questa positività, come non citare uno dei più famosi no, che è ovviamente quello di Dante. Da che tu vuoi saper co tanto adentro, dirotti brevemente, mi rispose, perché io non temo di venire qua entro. Temer si deve di sole quelle cose che hanno potenza di fare altrui male, dell'altre no, che non son paurose. Questo è un canto dell'inferno, è il secondo canto dell'inferno, siamo ancora all'inizio. E questo no, dell'altre no, che non son paurose, diciamo Dante ne fa un uso di questa negazione classico, perché generalmente in Dante il no assumeva anche una connotazione di così, quindi un rafforzativo che ci indicava, diciamo, la qualità di una descrizione, di un elemento. Invece in questo caso è la vera negazione, cioè si devono temere solamente quelle cose che hanno la potenza di fare male agli altri, quelle altre no, perché non sono paurose, non incutono timore. E vabbè, ora io non volevo, ma diciamo che chi anima, diciamo, queste parole è Santa Lucia. Ovvero, che cosa succede in questo momento? Che Dante insieme a Virgilio viene attaccato nella selva da tre fiere e viene appunto ostacolato da queste tre fiere nella selva oscura, ma Santa Lucia, la martire siracusana, viene in loro soccorso assieme ovviamente alla Madonnaccia e a Beatrice, immancabile Beatrice. E quindi Lucia viene definita nemica di ciascun crudele e non ha paura nemmeno delle bestie feroci che ci sono nella selva oscura in questo cammino per arrivare al paradiso. Ed è proprio lei, con questa negazione, a rincuorare il poeta e la sua guida ad andare avanti. Quindi non abbiate paura dell'altro, no, che non sono paurose. Di cosa? Delle fiere. Bisogna temere solamente ciò che ci fa veramente male. E quindi con questo pensiamo al 4 maggio. Pensando alla paura e all'inferno, mi viene in mente un grandissimo gruppo che si chiama Black Flag. Tra l'altro c'avevo questo ricordo di Felix, che tra i personaggi era un personaggio principale, diciamo, nella Firenze degli anni 90 almeno. E fu uno dei pochi che ho conosciuto, anzi l'unico che ho conosciuto, che aveva visto i Black Flag dal vivo. E gli chiesi come erano, come sono stati, e lui mi disse, ma lo diciamo un po' a tutti: una pozza di sangue, un delirio. Quindi erano i Black Flag, erano veramente cattivi ai tempi. Il pezzo che vi metto si chiama No More e è tratto da Damaged, che è il primo disco, il primo LP dei Black Flag, e anche il primo con Harry Rollins a cantare, disco del 1981 che uscì per Unicorn Records e SST, mi pare, no? Sì, e anche per SST. Prima si erano, vi ricordo che si erano formati nel 79 e fecero dei singoli tutti bellissimi, ma all'inizio ci cantava Pete Morris. Inoltre in Damaged ci suonava anche un altro bassista, mi pare, e c'entrò anche Dead Scadena all'altra chitarra. Insomma, quindi era una formazione già dopo 2 anni, era già molto diversa. insomma, ascoltatevi La Cattiveria e il No More, che poi magari Nina vi dirà qualcosa su No More. Black Flag. Che vi devo dire su questo pezzo, su questo No More? Andate a cercarvi il testo, perché è abbastanza, anche questo insomma del 81, però è abbastanza attuale. Ora non stiamo parlando di Romanes and Island, che era del 600, però insomma i Black Flag le cantavano chiare, no? E it won't work anymore, I need action, won't take no more, quindi proprio la negazione totale massima, perché poi nel testo ci dicono I'm not happy, I'm not free, quindi insomma è proprio una canzone tutta quanta costruita sulla negazione. E anche negazione ci stavano bene stasera, ma è vero, perché abbiamo parlato di no proprio come espressione, ma il no è una negazione, quindi vabbè, vediamo se recuperiamo magari la prossima volta, insomma, chissà. E vabbè, il nostro 8 Hertz mi diceva parlami un po' di qualcosa sul No More, e a me viene in mente, non so, così la poesia di Edgar Allan Poe, The Raven. Anche qui c'è tutta una commistione, un circuito costruito di negazioni, nothing more, insomma, andatevelo a leggere, perché questo non era assolutamente in programma, non, assolutamente non lo era, perché non ci avevo pensato sinceramente alla crisi del corvo di Edgar Allan Poe, dove c'è anche il nome Lenore, che in italiano viene tradotto con Eleonora, ma è Lenore, no, in mezzo, vabbè. E l'ha messo apposta, perché sennò non tornava la ritmica, non tornava il, come dire, il senso e la costruzione della poesia. Insomma, vabbè, che dire, che utilizziamo il sì per le risposte positive e ovviamente il no per le negative, cioè sono le prime cose che impariamo quando siamo bambini, qui ci entriamo un pochino più nella linguistica. E come dicevamo prima, rappresentano un po' i pilastri su cui noi basiamo la facoltà di scegliere poco articolata quando siamo bambini, hai fame e sete, sì no, vuoi giocare, sì no, fino a quando cresciamo. E quindi con queste due semplici, soprattutto con il no ma anche con il sì, sono, diciamo, pesano ugualmente sul piatto della bilancia, riusciamo poi a anche a rovinarci la vita per esempio. E quindi ci sembrava un tema, insomma, carino da trattare per questa sera. E è un po' come il codice binario, no? 0 e 1, su cui si basa una sola informatica, dipende tutto da quello. Però, che dire, che l'avverbio di negazione no è molto semplice, deriva dal latino, ovviamente, dal latino non, che in realtà ha un calco da un termine sconosciuto arcaico, che noenum, né unum, che significa non uno, neppure uno. Quindi, come questa particella no, in realtà noi oggi è come se la riutilizzassimo nella sua forma primigenia, ma in realtà nessuno sa da dove derivi, nessuno sa perché gli esseri umani dicano no, nein in tedesco, niente in russo, no in francese, no in spagnolo e no in inglese. È come se questo suono, no, ci accomunasse tutti quanti. E quindi il latino non deriva appunto da questa parola che ha il significato di non uno, neppure uno. E quindi si parte da un costrutto più complesso per arrivare a quasi un monosillabo, che è il nostro no. E il resto ve lo dico dopo. Tanto appunto adesso mettiamo un pezzo che si chiama semplicemente No, di Chuck D, che ovviamente è l'MC storicissimo dei Public Enemy, al suo disco solista, suo primo disco solista del 1996, si chiama Autobiography of Mr. Chuck, uscito per la Mercury. No suits and no ties, no stars, no overpaid A&Rs, no bodyguards, no gold teeth, no East Coast, West Coast beats, no dumb looks, no one-sided books, no special cooks, no finesse, no mess, no struggle, no progress, no hitting sprees, no HIV, no lies for no TVs, no contracts, no tracks with no mechanicals. The easiest and the hardest word to say is no, only got two letters, only takes a second to say it, no meaning no, no contest, no stress, no second guessing, no bodyguards, no question, the easiest and the hardest word to say is no, only got two letters, only takes a second to say it, no meaning no, no contest, no stress, no second guessing, no bodyguards, no question, the easiest and the hardest word to say is no, only got two letters, only takes a second to say it, no meaning no, no contest, no stress, no second guessing, no bodyguards, no question, the easiest and the hardest word to say is no, only got two letters, only takes a second to say it, no meaning no, no contest, no stress, no second guessing, no bodyguards, no question, no bodyguards, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Dammi voce, caro 8 Hertz. Sì, qua il sabotaggio contro la Brusca, almeno l'ultima esponente finora attiva. Un saluto anche alla nostra Nenia che ci sta ascoltando. Ciao. Ciao, voce, ciao. Anche un po' barcaglione. Che fai, ci provi con le mie amiche, eh? Insomma, non la conosce. D'altronde, chi mai si è vista tra i corridoi della Regia del Wombat? Nessuno sa. E insomma, un saluto alla nostra Nenia, che probabilmente ci starà ascoltando. Noi stiamo per preparare uno spottino, ovviamente per dirvi che torneremo. Non sappiamo quando, perché al momento insomma la situazione è questa e noi ci piace tanto stare in regia, ci piace tanto potervi sollazzare con le nostre perle ai porci, nel senso che i porci siamo noi ma le perle ve le diamo a voi, nella tana del Wombat. Perle dai porci. Bravo, sì, bravo, bravo, vedo che sei attento e che segui la trasmissione. Hai usato il costrutto più giusto. Però insomma, perle ai porci a parte, perle dai porci a parte, e vi ricordiamo che per qualsiasi per qualsiasi ritrosia e per qualsiasi manifestazione di astio nei nostri confronti potete scriverci a postawombat@insiberia.net. Potete ovviamente collegarvi anche a Radio Wombat, quindi wombat.noblogs.org, ma probabilmente ci starete ascoltando da lì. E abbiamo un Facebook, ovviamente abbiamo un Twitter, quindi Radio Wombat Fi, radio-wombat-fi rispettivamente, e vi aspettiamo numerosi insomma su queste frequenze, su tutte le strade dell'etere che portano a noi. Quindi dal no ora passiamo sì, sì, ascoltate Radio Wombat e soprattutto sì, scrivetelo con l'accento, non omettetelo, altrimenti si confonde con la settima nota musicale. Quindi abbiamo parlato del no, noenum ne unum, quindi non uno neppure uno, e anche il suo fratello sì, ha più o meno diciamo un'origine simile, perché la parola sì deriva da una locuzione antica, ovviamente latina, che è sic est, quindi una locuzione che ha il significato di è proprio così, è così ed è in questo modo. E poi in epoche passate, diciamo, si è preferito utilizzare solamente il monosillabo e addirittura a volte si trovava come sinonimo il così. Pensate un po', quindi sì e no, in realtà abbiamo, diciamo, tendiamo sempre a semplificare linguisticamente parlando, soprattutto più si va avanti, più il linguaggio si evolve, più si tende a levare ciò che sembra superfluo, e quindi dal sic est al noenum siamo arrivati al sì e al no. Una domanda ti volevo fare. Oggi diciamo veramente una cosa che prendiamo dall'inglese, no good, no buono si dice, no buono, non è buono, non è valido, non è accettabile, no? Giusto? Sì, questa è, cioè, ovviamente lo diciamo come slang, se così vogliamo dire, no? Però probabilmente in inglese questo è un costrutto che funziona, che ha una struttura grammaticale corretta. Per noi italiani dire no buono è assolutamente slang, però appunto ci sono delle variazioni nella lingua, diatopiche, diafasiche e diamesiche, di cui parliamo tra un pochino magari, che ci fanno adottare anche, no, comportamenti linguistici che appartengono a un'altra nazione, un'altra lingua, e poi noi semplicemente la traduciamo così in maniera maccheronica alla Carlona e ci viene fuori anche qualcosa di carino, no buono. No buono è che è il titolo appunto del brano che ascolterete, che conoscete veramente tutti, No Good dei Prodigy, ovviamente dal disco Music for the Jilted Generation del 1994, che uscì Jilted, vedi? Vedi, c'è anche così. 1994, che uscì per XL Recordings, e questo pezzo e questo disco furono epici per i Tecnazio, gli elettronici, i danzerecci, insomma un po' per tutti in realtà, anche per chi ascoltava pop. We'll be right back. ma senti un po' che mixetti che ci fa 8 Hz, quasi quasi lo perdono. Questa regia segreta da qualche parte nella città. Questo era un pezzo che quando ero più piccolo vidi il video per la prima volta, ho detto: ma questa è la techno da capannone. Perché anche il video mi pare si svolga in un capannone. Ma i Prodigy stessi sono un po' da capannone. Povero Kid che ci ha lasciati 2 anni fa, ormai un anno e mezzo fa. Insomma, era un bel personaggio, come dire, abbastanza controverso, come buona parte dei personaggi inglesi, no? O irlandesi, quello dei The Pogues. Tra l'altro non so se avete visto il nostro Shane come sta ultimamente. Molto, molto triste, insomma. E vi intristirò ancora di più perché adesso entriamo proprio nella sociolinguistica, perché non ci potevamo sicuramente fermare ai riferimenti poetici sparsi qua e là per il mondo e poi non riflettere invece su come utilizziamo noi la negazione in italiano, no? Insomma, era una grossa mancanza, perlomeno da parte dell'Accademia della Brusca, insomma. Però vi volevo segnalare una risorsa in questi giorni di quarantena, insomma, magari in tanti si lavora ancora, però magari chi ha un pochino più di tempo può scoprire accademia.edu con una C sola. È un portale pieno di PDF, una parte si possono pagare, ma quasi tutte le risorse sono gratuite, le potete scaricare, ed è praticamente un buco nero di cervelloni, di macrocefali che pubblicano le loro tesi, le loro pubblicazioni, roba di dottorato, così, su un sacco di materie. In realtà, insomma, leggendo un po' di cose non è tutto così astruso, incomprensibile, insomma. Quindi è un'ottima risorsa per approfondire quello che vi piace, insomma, magari quello che avete studiato ma non avete mai avuto modo di approfondire. Qua intanto stanno già mettendo il prossimo pezzo che tra un pochino vi facciamo sentire, che è perfetto, proprio calza proprio pennello sul tema della sociolinguistica e del pippone che sto per farvi. Ovvero, la negazione nella frase, nell'italiano contemporaneo, no? E come funziona in italiano la negazione? Generalmente la struttura si realizza attraverso l'impiego, con questo sassofono barcaglione sotto, è bellissimo. Posso fare anche la voce un pochino più... Insomma, no. Fai così. Oh, può fare un sacco di cose 8 Hz per rovinarci le orecchie e l'auditel. No, vabbè, le strategie di negazione dell'italiano sono abbastanza canoniche, no? Abbiamo un non, quindi un avverbio che è preverbale e generalmente un altro elemento negativo che segue in posizione postverbale, quindi dopo il verbo. Stanno sabotando. E questo secondo elemento è generalmente un quantificatore, può essere un pronome indefinito, un negativo come niente, tipo boh, Giannino non ha mangiato niente, oppure nessuno, tipo Mariangela non ha visto nessuno. E poi abbiamo anche l'avverbiale mica, che è più colloquiale, ma insomma no, non è propriamente così, lo troviamo anche in un sacco di cosette scritte, quindi non fa mica freddo, che in realtà è, vedete, l'utilizzo di una struttura negativa per dire esattamente il contrario, per dire che fa caldo, non fa mica freddo. Quindi questa avverbiale mica in realtà potrebbe essere quasi un'esclamazione. E questo tipo di negazione frasale è una struttura discontinua che può essere anche considerata non canonica, però questo discorso assume un carattere, diciamo, sociolinguistico ci sono delle brevi rassegne di studi che affrontano questo argomento e ci dimostrano come in realtà la negazione della frase sia poi soggetta a una variazione diatopica, quindi di luogo, diafasica, di tempo e anche addirittura diamesica, che significa praticamente quella capacità di una lingua di variare a seconda del mezzo del canale adottato, quindi scritto, parlato e soprattutto con le varianti regionali. È un tema complicato, io qui sotto ho un PDF generalmente, insomma, piuttosto, come dire, corposo, e in cui si analizza per esempio l'impiego di alcuno, di nessuno, e la cosa strana è che questi pronomi che noi utilizziamo in italiano sono stati studiati soprattutto da tipo Haspelmath nel 97, che è uno studioso tedesco che parla benissimo l'inglese, quindi insomma ci fanno le scarpe dalle altre parti del mondo sull'uso, appunto, come dicevo, di amesico, di elementi della frase che insomma apparterrebbero non solamente a noi come, tra virgolette, parlanti italiani, ma addirittura parlanti delle nostre varianti regionali. Metto il pezzo, non dico nulla. insomma, qualcuno mi ha voluto lanciare un messaggio con questo no fan degli Stooges. Tra l'altro, un ottimo consiglio per questa quarantena: bevete Guinness, perché dice Iggy Pop che è il segreto dei suoi addominali. Tra l'altro, ha compiuto, mi sembra, 74 anni, 5, non so quanti, la settimana scorsa. Quindi, insomma. Però lo diceva anche Billy Idol che il segreto dei suoi addominali, che ora non so come siano, era proprio la Guinness. E anche il segreto del suo labbro leporino. Vabbè. Effettivamente ci potrebbe stare. Intanto qui c'è 8 Hertz che lo sta imitando benissimo. Io farei una proposta. Radio Wombat, mettiamo anche il video, così potete vedere il nostro 8 Hertz che si cimenta nelle... No, sia mai, casomai dei video in cui le persone ci mandano appunto un loro video che imita... No, la... sono rintronato. Che imita, avete capito chi? Quello col labbro leporino di cui parlavamo 30 secondi fa, non ce lo ricordiamo più. Vabbè, abbiamo i neuroni... Boy George, perfetto. I neuroni bruciati in diretta su Radio Wombat. Sono le 20:15 dell'ultimo giorno di aprile. Le giornate si stanno allungando, così come io allungo il brodo, perché ormai ho finito gli argomenti. O meglio, ne avrei da dirvi sulla negazione della frase. Poi il prossimo pezzo, appunto, che vi mettiamo tra un pochino, parla proprio anche... Non è che parla di neuroni bruciati, però diciamo che il gruppo che ha composto e cantato questo pezzo del 76 ha effettivamente neuroni bruciati, ma sta meglio di noi, questo è sicuro. Vabbè, no, uno no, poverino, manca da tanti anni. Tra l'altro è il batterista più bravo della storia, più scaccione della storia. E vabbè, come noi in italiano non facciamo cioè non usiamo la negazione. È arrivato un gatto qui nella regia della tana. E vabbè, non utilizziamo solamente il no secco, no, nella negazione della frase nell'italiano contemporaneo, ma utilizziamo anche i cosiddetti pronomi indefiniti negativi, che in linguistica vengono poi indicati come PI, appunto pronomi indefiniti. E, è una terminologia questa che identifica dei cosiddetti quantificatori negativi, come proprio niente e nessuno. E, sono appunto dei pronomi che da un punto di vista funzionale esprimono anche un altro elemento, che è quello dell'indefinitezza, quindi è qualcosa di completamente indefinito. Anche qualcuno che ora esula da questo parapippone sulla negazione, però insomma rientra anche lui, e quindi anche la non esistenza come nessuno. Quindi questi pronomi che in genere ricorrono in serie che vengono determinate proprio dalla loro funzione, un po' come se fosse una sorta di categoria ontologica, no? Quindi, si riferiscono. Ci sono tanti casi particolari e strani. Noi sappiamo, no, che l'italiano è una lingua particolarmente complessa. Se chiedete a uno straniero, soprattutto a un anglofono, com'è lo studio dell'italiano, vi dirà sicuramente che è complicato, perché ci sono tantissimi elementi che non gli tornano, una varietà insomma abbastanza cospicua, così come per noi latini quando studiamo una lingua germanica dobbiamo, se non abbiamo fatto latino prima, insomma ci troviamo di fronte alle declinazioni e a tutti i casi che insomma sono abbastanza ostici. Vediamo un po', per esempio, alcuno, no? Che viene utilizzato al singolare nelle frasi negative, soprattutto nella lingua scritta, e ricorre quindi, anzi scusatemi, in concorrenza con altri elementi delle frasi come nessuno. Possiamo dire non conosco alcuno dei presenti in sala o non conosco nessuno dei presenti in sala. Però alcuno è anche un aggettivo, non vi è alcun dubbio, e così lo è anche nessuno, non vi è nessun dubbio. Quindi tante, diciamo, variazioni, no? E poi ci sono altri elementi della serie nessuno, come niente, nulla e anche mai. Niente Nulla sono analoghi di Nessuno, e la forma Nulla invece è molto molto diffusa in Toscana, in questa regione, e invece nel resto d'Italia è diafasicamente marcata verso l'alto, ovvero più che il nulla si utilizza il niente, e il niente viene impiegato come pronome, però può avere anche una funzione aggettivale, per esempio con un'esclamazione: niente interviste, niente dirette. Oppure ha un valore aggettivale quando diciamo niente male, per cui insomma vediamo che le frasi negative spesso non sono propriamente negative, ma questo è il grande, come dire, il grande rovescio della medaglia della lingua italiana. Quindi niente male significa tutt'altro che un qualche cosa di negativo, o niente meno, che è tipico del napoletano. Oppure l'interiezione di niente, che non significa no, ma anzi significa un figurati. Non c'è nulla. Ecco, il non c'è nulla è toscano. È toscano, si diceva il niente, è una variazione diafasica. Ed è nordico invece il non c'è niente, non c'è nulla, sono esattamente sinonimi. La doppia negazione mi ha sempre spappolato la testa, proprio. Non riesco a accettarla. Ma la doppia negazione è fatta. Sì, è una doppia negazione, effettivamente, sì. Però guarda come la usi spesso. Cosa c'è da mangiare? Non c'è niente, non c'è nulla. Niente. Visto? Dovresti dire c'è niente, c'è il nulla. No, perché lo dicevo prima all'inizio, la negazione generalmente nella frase italiana compare prima del verbo e poi può essere seguita da un ulteriore elemento, generalmente aggettivale o avverbiale, che arriva dopo il verbo. Capito? Tutto chiaro. Davide, mandiamo un pezzone, un pezzo dei Led Zeppelin. Si chiama appunto, per rimanere sempre solo con la fissa ormai cerebrale della serata e della puntata, si chiama No Quarter. Indagando un po' su quarter, giusto? Indagando un po' su cosa vuol dire No Quarter, anch'io ho fatto, mi sono studiato un po' puntata e ho letto che, vi leggo quello che insomma ho trovato, quanto è brevissimo. Per no quarter si intende un'espressione militare di origine medievale, e le Zeppelin sono inglesi, quindi presumo che venga appunto proprio dall'Inghilterra stessa, resa iconica dall'era della pirateria, che appunto, come la storia insegna, i pirati insomma inglesi erano tra quelli più famosi, diciamo. Il significato è grosso modo non avere pietà, né soprattutto chiederla. Un modo per dire in parte assimilabile al nostro lotta senza quartiere. In realtà lotta senza quartiere si sta usando poco, quindi boh, è un po' così. Però pure non avere pietà né chiederla è un pochino più reale come cosa. Insomma, questo è il significato di No Quarter. Questa è una versione dal vivo del 1976, che la potete trovare nel disco che era la colonna sonora del film. Infatti si chiama The Soundtrack for the Film, The Song Remains the Same. Buon ascolto. Parte bellissima come No Quarter, anche l'originale. was a norm without the light. You know they won't be home tonight. Oh no, the snow falls hard, don't you know? The winds of Thor are blowing cold, cold, cold, cold. They wear in steel that's bright and true. Oh, side by side with death. The devil mocks their every stare. The snow drives back the foot that's slow. The dogs of doom are howling, moan, moan, moan. Every news of musket. Quindi avete capito che ci riferivamo prima quando si parlava di bruciati e bruciati. Questo era un pezzo live del 76, come ci ha spiegato prima 8 Hertz, e con questa bellissima espressione che è No Quarter, quindi viva la pirateria. E ritorniamo invece a parlare di cose che hanno ben poco a che fare con i pirati e tutto ciò che è di contrabbando, perché è la nostra lingua. Però quasi come in un calcolo algebrico, no? Noi finora abbiamo parlato di questi pronomi indefiniti, quindi niente, nessuno, nulla, alcuno, tutti quelli che abbiamo nominato finora, e poi però quasi come un elemento di polarità negativa appare il più, che è un avverbio piuttosto standard in italiano che viene impiegato però anche nella negazione, cioè come un elemento più positivo venga abbinato a un elemento negativo per darci la sicurezza proprio di una negazione massima. Quindi ha un significato fasale, si dice in alcune frasi, come per esempio in non lo faccio più. Perché? Perché se diciamo lo faccio più, vediamo che stiamo pronunciando una frase completamente agrammaticale. Invece con l'occorrenza di questo non preverbiale, perché la struttura rimane sempre quella, facciamo una frase correttissima, non solo, uno dei primi costrutti che impariamo quando la mamma ci sgrida e noi da bugiardoni gli diciamo non lo faccio più, e invece non è vero. C'è una bella mappa semantica, appunto, che viene stata tracciata da questo studioso che si chiama Haspelmath, che vi invito ad andare a vedere, che individua appunto nuove funzioni di questi pronomi indefiniti. E c'è una decima negazione, un decimo elemento che viene detta negazione olofrastica, oddio. Ed è la funzione che viene svolta dai pronomi ellittici, o perlomeno quei pronomi che possono fare lo shift nella frase, quindi lo spostamento, in risposta alle cosiddette domande, sentite che terminoni, parametriche, ovvero Chi hai visto? Nessuno. Quindi questo nessuno che sta per i fatti suoi. Ed è assolutamente, come dire, autonomo e indipendente. E ci sono poi tante funzioni, no, che possono essere svolte da questi pronomi. E per esempio nessuno è un pronome che deve concorrere con l'avverbiale di negazione. E per esempio quando stanno dopo il verbo, perché se invece sono prima del verbo la negazione non ci va. Ovvero, provate a pensare a una frase come nessuno non è venuto, è una frase agrammaticale, mentre diciamo non è venuto nessuno, o ancora più raramente, non è venuto alcuno, oppure nessuno è venuto. Però non possiamo dire nessuno non è venuto, perché questo nessuno appunto ha una funzione quasi assorbente, e quindi assorbe la negazione non e basta lui da solo, un po' anche per dare una risposta a quello che ci diceva prima Otto Hertz, no, della doppia negazione. Non sempre si può, è ammissibile, insomma, e si può fare. E dicono quindi proprio i linguisti che anche alcuno, come nessuno, è il cosiddetto quantificatore esistenziale generico con caratteristiche di termini a polarità negativa. E ovvero, perché questo assuma un valore negativo, è necessario che vi sia anche a volte, è necessario, insomma, che ci sia un elemento di negazione nella frase. Insomma, è tutto abbastanza contorto, no? Però la negazione olofrastica, chi è venuto? Nessuno. Ma se usiamo alcuno, chi è venuto? Non è venuto alcuno. Però potremmo tranquillamente dirlo anche senza il non davanti. Insomma, che pippone, mi sono intrippata, perché poi non sono nemmeno sicura di aver detto le cose come stanno. Ditecelo, mi raccomando, perché poi la cosa migliore sarebbe fare il cosiddetto diagramma d'albero, quindi con tutto lo sviluppo della frase, dei sintagmi. Insomma, è un po' un casino, però è bella la linguistica. Allora, intanto se ne ragionava prima, e questo pezzo, che è dei Front 242, si chiamano Shuffle, e Shuffle sarebbe, leggendo anche un po' il testo, "There is no shuffle here", vuol dire che non c'è mescolanza, non c'è rigiro, no? È sempre un po' la stessa cosa, diciamo. Però in inglese viene usato un po' con un termine, shuffle, che poi si usa anche per la musica, per l'elettronica, per tipo fai lo shuffle, nel senso fai mescoli, insomma. E l'ho trovato adatto alla trasmissione, anche perché appunto c'è questo no shuffle che a noi, insomma, non riusciamo molto bene a dare un senso vero, causa forse di un'esperienza, non lo so. Comunque andatevi a cercare cosa vuol dire shuffle e no shuffle, che tra l'altro questo brano, che è anche nel primo disco, io vi ho scelto quello del secondo disco, il disco secondo tra l'altro si chiama No Comment, sempre per rimanere a tema, no, che uscì nel 1984 per Other Side. I Front 242 erano un gruppo belga che mischiava, diciamo, il post-punk a quello che poi sarebbe diventato EBM e ancora dopo un po', cioè la electronic body music, e ancora dopo la rave culture, diciamo. Infatti comunque era Belgio, Olanda, insomma erano un po' i paesi in cui c'è stato un po' il clou della rave culture. Questa versione rispetto a quella del primo disco è più cruda, diciamo, più raw, diciamo in inglese. È bella, insomma. Ascoltate Front 242, No Shuffle, la versione che trovate nel disco No Comment. 242, ci avviciniamo alla fine della diretta, quasi due ore insieme, sono le 20:45 e insomma abbiamo, anche stasera abbiamo spaziato, abbiamo fatto un viaggetto tra poesia inglese, Dante, il nome in snow delle femministe, quindi tutta la questione insomma del consenso sessuale, e per me da Emiliano è difficile dire consenso sessuale, rendetevene conto, vi fischierà tutto, e fino ad arrivare un po' insomma alla negazione dell'italiano contemporaneo, che non so quanto ci abbiate capito. Ci riprovo a fare un po' una summa, no? Ovvero, non utilizziamo solamente il no e il non, ma utilizziamo anche i nostri P, come magnum PI, i nostri PI, i pronomi indefiniti, nessuno, alcuno, niente, nulla, eccetera, eccetera. E ricordiamoci che per fare delle frasi negative, quindi l'elemento negativo, spesso e volentieri assume il connotato di una affermazione di un qualche cosa di positivo, quindi quanto è contorta la nostra lingua. E per quello che dicevo prima, ci sono degli elementi intrinsecamente negativi, come il nessuno, semplicemente perché possono essere impiegati in contesti ellittici con un significato negativo, quindi nelle domande, nelle negazioni indirette, tipo non è necessario che facciate niente. Com'è? Non è necessario che facete niente, oppure non è necessario che facciate alcunché. Sono convinta che l'alcunché vi suoni meglio che niente, eppure anche l'alcunché in questo caso assume un connotato intrinsecamente negativo, capito? È molto difficile, molto molto difficile. Beh, insomma, siamo quasi alle 20:50 e quindi così per farvi godere anche l'ultimo pezzo, io direi che per questa sera possiamo chiuderla qui. Sì, vi do un po' i credits dell'ultimo pezzo, che è dei Revolting Cox, che è un nome terribile e allo stesso tempo bellissimo, che si chiama No Devotion, è una versione live. Allora, intanto, chi sono i Revolting Cox? Ve ne ho parlato in qualche altra puntata di 8 Hertz. Sono un gruppo composto da membri di altri gruppi che facevano più o meno anche le stesse cose, che erano Ministry, Pig Face, gli Skinny Puppy, anche Killing Joke, insomma tutta la cosa del periodo, diciamo, industrial metal, con tanti derivati da, appunto, dall'EBM, dall'elettronica, da tantissime cose, insomma, che ha gravitato fondamentalmente da le cose belle hanno fatte tra fine anni 80 e primi 90, diciamo. Questo pezzo, che si chiama No Devotion, appunto, è live del 1988, quando un po' fecero questo tour Skinny Puppy, Ministry, Pig Face, tutti insieme. Ci sono vari live che potete vedere anche sul tubo. Suonavano anche con le davanti delle impalcature, delle griglie, la gente si attaccava al fuoco, le fiamme, tutto. Era bellissimo, veramente bello. Purtroppo non li ho mai potuti vedere in quegli anni dal vivo. Comunque, in questo live, appunto, c'era Al Jurgens and the Ministry, Chris Cornell, che ha gravitato un po' con tutti, e che poi dopo che poi ha avuto, sta avendo tuttora una carriera da cantautore. E poi Paul Barker al basso, che purtroppo ci ha lasciato, sì, e William Rieflin. Paul Barker è vero, è ancora vivo, era l'altro mio. Scusate, ma ha detto che Paul Barker è morto. No, era l'altro, diciamo, il nome sì. Vabbè. E William Rieflin, che invece è morto pochi giorni fa, in realtà, purtroppo. Comunque, il pezzo è tratto da questo live, che potete trovare anche in vendita, e uscì anche il filmato, e si chiama You Goddamned Son of the Beach. No Devotion, e con questa concludiamo. È un bel pezzo, non è neanche così corto, ma ascoltatevelo tutto, che è fantastico. Ciao, dopo c'è 8 Hertz, rimane la puntata della settimana scorsa, quindi ve la lascio così, che è un montaggio di brani che ci ha gentilmente concesso Filippo Panichi, che ha fatto in passato qualche trasmissione proprio con 8 Hertz. Cut up di, come si può dire, di improvvisazioni elettroniche sue, abbastanza rumorose, con cut up di film che ci piacciono tanto. Quindi vi lasciamo con i Revolting Cox. A presto. A prestissimo. Ciao da questo ibrido strano, brusca. Ciao, ciao. Radio Wombat. Ah!